Sì, o anche a casa propria, nel senso che proprio in occasione di appunto dell'ultimo allargamento del cantiere, prima della sua definitiva, diciamo, configurazione, che è quella attuale, i blocchi sono stati non solo più in Valsusa, ma sono stati in tutta Italia, no? Quindi questa pratica replicabile del blocco, che tra l'altro non è solo prerogativa del movimento Notav, l'abbiamo visto nei forconi, l'abbiamo visto nelle lotte della logistica, abbiamo visto quanto la pratica del blocco attualmente possa essere una pratica estendibile, replicabile e terribilmente efficace, che forse è stata quella che più di ogni altra cosa ha portato anche la ribalta al movimento. I 3 giorni di blocco dell'autostrada del Frejus credo che sia stati su quell'aspetto i peggiori come conseguenze, no? E voglio dire, questa cosa qua, cioè è successo bloccata tangenziale a Roma, sono state fatte altre cose, blocco dei treni, in una ipotesi di sostegno, cioè anche l'articolazione locale di questo tipo di pratica ha importanza, non devo per forza essere là per partecipare. No? Una piccola cosa, mi aggancio a quello che diceva lei sul discorso gente della valle, gente da fuori, no? Visto che poi noi siamo qua in Lombardia, dove la Lega ancora ha la sua H forte, il discorso sul territorio, l'appartenenza, il discorso appunto di chi ha il territorio, i padroni a casa nostra, no? Lì non si è mai detto valsusino, quello viene da fuori, c'è, perché c'è comunque anche questa lettura qua, però la discriminante è il notav e il non notav. Io tra l'altro non userei neanche il termine sitav, perché secondo me è troppo qualificativo, cioè insomma ci sono i notav, al massimo i protav. Lo dico anche perché tra l'altro sitav è una cosa che loro hanno tirato fuori, hanno iniziato a usare. Sì, ha sempre cercato di costruire una rappresentazione che non corrispondeva alla realtà, perché non si è mai visto. Ha fatto il libro Esposito. Sì, no, ma anche quando hanno tentato dei convegni a Torino, dei comitati, cioè andavano dei compagni e gli dicevano: ma non entrate che è imbarazzante, perché gli fate il pubblico. Cioè, una volta quando Chiamparino ha fatto un coso è stato un fallimento 2 anni fa. Anche qui c'era un assessore che voleva fare il tangenziale. Vabbè, niente, comunque era una cosa di poco, però dico, quello che è importante è essere notav o un'altra cosa, cioè l'appartenenza al territorio, cioè deve essere di sangue, deve essere di suolo o deve essere di che tipo? Cioè, per me, se c'è una valsusinità è di chi quel territorio lo difende, che c'è nato, che c'è arrivato, che ci arriverà, che c'è stato poco o tanto, chi difende quel territorio possiamo dargli fregio di valsusino, gli altri no. Anche se sei nato lì, sei di 10 generazioni. Secondo me questa è una discriminante importante, per cui è notav anche chi in Valsusa non c'è mai andato, se appunto è notav, fa qualcosa per quel no lì. E secondo me questa cosa ha una sua rilevanza anche nel nostro territorio. Chiusa.